3. Ho sempre fatto il mago. Il mio maestro è stato il grande Fernando Biudek, perfezionatore del filo invisibile di Perlon e specialista in sparizioni. Biudek era stato allievo di Alois Kastner, che inventò il giardino di fiori e il trucco dell'elefante. Kastner imparò da Okito, il mago sordomuto che inventò il trucco della sfera sospesa per aria. Prima di Okito ci fu Howard Thurston, che inventò il trucco della corda indiana. E prima ancora Houdini, il re dell'evasione, e il famoso Canalag, che inventò la parola Simsalabim, e Harry Keller, che inventò il trucco della levitazione. Prima di lui ci fu Samuel Bellachini, prestigiatore di corte dell'imperatore Guglielmo I, e anche un certo signor Wolfgang Goethe, prestigiatore con l'hobby di scrivere, abilissimo nei giochi con la scatola magica. Goethe imparò da Johann Nepomuk Ofzinser, che fu il re della prestidigitazione con le carte, e da Ludwig Döbler, che inventò il trucco del mazzo di fiori. E prima ancora venne Jean-Joseph Pinetti, che si faceva chiamare Professeur de Physique Amusante, e tutti impararono dal fakiro indiano Ezba, che a sua volta imparò dal Buddha, che imparò dal primo mago Sorepsoye, Pe Wei, che era un mago Baol. Non posso svelarvi chi sono stati i miei insegnanti di magia Baol, perché è una magia segreta. Posso però dirvi che sono abbastanza abile nei trucchi di chiaroveggenza, un po' meno in quelli di levitazione. So fare giochi straordinari con le carte, so uscire da una vasca sigillata intendo, so far uscire dal cappello fiori, conigli di Fiandra e foulardi di Dior. So far sparire orologi, ne ho appena rubato uno per pagarmi la consumazione. Ma il numero che anni fa mi diede una piccola notorietà era questo. Facevo sparire una grossa oca. La mettevo sotto un telo scuro e lei spariva. Nessuno capiva come facessi. Vi dirò la verità, neanche io. Era l'oca che era brava. In 15 anni di numero non ho mai capito dove andasse. Povera Colette, si chiamava così. Spariva e la ritrovavo nella camera dell'albergo che mangiava la sua pannocchia lessa. L'avevo avuta in regalo dal mio maestro, il già citato Fernando Biudek, quello che sparì in un locale di Parigi insieme a una signora del pubblico con cui era chiuso nel baule. Il marito li cerca ancora. Scusate se mi lascio andare alle confidenze, adesso che i gerarchetti se ne sono andati e il Fernet mi concilia il revival. Colette era proprio un'amica. Morì di fegato, non male per un'oca. Beveva molto, anche 20 cognac per sera. Se non beveva, non riusciva a lavorare. Diventò sempre più gialla e spennacchiata, non teneva più sul collo, barcollava in scena. Come potevo rimproverarla? Era una vecchia oca vedova. Il marito era morto sdoppiettato mentre emigrava in Spagna. Una notte sentii che aveva degli incubi. Faceva un rumore strano, come quattro lavandini diacronici. Uscì dalla sua cesta e capii che voleva andarsene. Salì sul davanzale della finestra. Mi lanciò uno sguardo d'addio. Aprì le ali e si schiantò. 10 metri sotto. Era un po' giù di esercizio con il volo. La seppellì in una custodia di chitarra col bel collo allungato. Riposi in pace, ovunque sia. Dopo vennero tempi duri. Lavoravo in un piccolo circo. Un elefante, un po' di felini misti e 3 numeri di attrazione. Io, il giocoliere cinese e il finto leone. Il giocoliere cinese sapeva tenere in aria 100 piatti, ma essendo molto povero ne aveva solo 3. E faceva il numero con quelli. Dentro al leone c'erano 2 fratelli ungheresi, i Pazdor, che non uscivano mai dalla pelle. Una notte entrai nel loro carrozzone per chiedere un'aspirina e scoprii che non erano 2 fratelli ungheresi, ma un vero leone disoccupato che per trovare lavoro si travestiva da leone finto. Capito che tempi? Dopo il circo sono tornato nel giro del night per qualche anno, ma l'ambiente è cambiato, i night si sono riempiti di gente nuova. Non ci sono più quelle belle carogne di una volta. Questi di adesso sono dei pericolosi parastatali. Li vedi tirar coca e il giorno dopo eccoli in TV che parlano contro la droga. Li vedi abbracciati ai mafiosi e il giorno dopo sono ai funerali delle vittime della mafia. Chiamano i camerieri «Ehi capo!», le donne «Ehi fata!» e dicono al pianista «Cos'è sta lagna?». È troppo anche per un mago. I maghi non sono moralisti, però sanno dov'è il trucco. La sera che decisi di smettere, lavoravo in un locale che si chiamava My Way. Sapete, la canzone di Sid Vicious. Il pianista del My Way è un giamaicano che si chiama Ozzy ed è l'unico pianista sonnambulo che conosca. Lavora di notte da 40 anni, ma non ha mai invertito il bioritmo. La mattina si sveglia alle 7, di notte, quando deve lavorare e crepa di sonno. Suona la prima canzone e poi si addormenta e suona in trance. Basta che qualcuno gli sussurri all'orecchio il titolo di un'altra canzone e va avanti. È come un jukebox. Una sera, che nessuno gli cambiò disco, suonò Arrivederci Roma 60 volte di fila. C'era un gruppo di giapponesi contentissimi che la cantò tutte le 60 volte, ma gli altri se ne andarono. Anche quella sera, la mia ultima, Ozzy suonava benissimo, però russava. E c'era una banda di palazzinari con siliconate al seguito, cui la cosa non andava. Uno di questi, grosso tre piani, andò vicino a Ozzy e gli sibilò nell'orecchio. «Sveglia, stronzo!» Ozzy andò in crisi, perché non conosceva nessuna canzone con quel titolo, e si mise a suonare il giro di Do in caduta libera. Allora il palazzinaro lo svegliò con una caraffata di seltz. Io presi il palazzinaro e lo infilai dentro la cassa del pianoforte. Usciva solo la testa un po' gialliccia, sembrava una cozza. Scoppiò una rissa che non rimasero intere neanche le olive dei cocktail. Pagai la mia quota di danni e me ne andai. So cosa pensate. Come ho fatto se quello era così grosso? Semplice, sono un mago. Non fatemi saltare la mosca al naso.